slick chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. The high heels on for the baby blues hat. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Man, oh man, what a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click a slick chick. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a slick chick. She's a neat chick. But see what I make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a slick. Yeah, yeah. My, my yeah, yeah. I slick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. A slick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. Clickety click a slick chick. Ben trovati e ben trovati a tutti. Sì, chissà se il mio microfono sta veramente funzionando o pare a me. Eccoci, eccoci qua, maledetti altri wombat che mi spostano i microfoni. Eccoci ritrovati e ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. E oggi è il 6 marzo, no scusate, niente, iniziamo malissimo questa puntata. 7 marzo, mercoledì 7 marzo 2018 e settimana direi iniziata malissimo, non tanto per le lezioni di cui personalmente non me ne potrebbe fregare di meno, ma per la follia, ma che forse definire follia è, anzi sicuramente assolutamente riduttiva, che abbiamo visto in questi giorni a Firenze con l'omicidio di Idi e poi a seguire soprattutto, e lì sì veramente si è aperto un circo di follia, dei commenti e delle fioriere che valgono più della vita di una persona e quant'altro. Per questo vi ricordo subito il corteo nazionale, tra l'altro, che è stato indetto a caldo a Firenze per sabato 10 marzo, quindi sabato prossimo, tra pochi giorni, partenza alle 15, luogo ancora da definire se non sbaglio, ma insomma i dettagli verranno dati tra poco, come capirete, tutto un po' concitato. E quindi con diciamo che è abbastanza inutile sottolineare quanto è importante essere presenti sabato, così come lo è stato e in tanti hanno capito, al presidio di ieri, subito, e per una risposta immediata almeno il giorno dopo, e per essere vicini agli uomini e alle donne senegalesi in piazza. E quindi insomma ci vediamo in piazza sabato 10 marzo. Se per caso avete dei problemi a esserci, in ogni caso noi stiamo cercando, ci stiamo organizzando noi wombati e wombatesse di seguire il corteo in diretta, di offrirvi una diretta da questa giornata importante che speriamo sia numerosissima e intensissima. Ma cambiamo argomento, perché c'è un'altra cosa che succede in questa settimana. Basta andare alla COP per rendersene conto dal numero di meravigliosi mazzolini di mimose. Sì, domani è l'8 marzo. L'anno scorso Slick Chick celebrava questa data parlando di sciopero, Quest'anno no, quest'anno non parleremo di donne, ma parleremo di androginia. Dice Wikipedia, l'androginia è la combinazione di elementi o caratteristiche maschili e femminili in una stessa persona. Tale ambiguità può fondare la propria identità di genere o anche solo lo stile di vita esteriore. Non confondiamo l'androginia con l'intersessualità, che invece riguarda la coesistenza di apparati sessuali femminili e maschili. Continua Wikipedia, in termini di identità di genere, per quanto riguarda gli esseri umani, androgino è una persona che non si adatta perfettamente ai tipici ruoli di genere, di mascolinità, femminilità della società all'interno di cui vive. Per descrivere se stesso, l'androgino può anche utilizzare i termini ambigender o polygender e molti androgini si descrivono come essere mentalmente a metà strada fra uomo e donna, ma possono anche identificarsi come totalmente asessuati o agender, ovvero privi di genere d'appartenenza, oppure tra i generi di genere neutro, gender queer, multigender, intergendered, pangender e gender fluid. We'll be right back. Questi erano i Water Boys, Girl Called Johnny, dall'album The Water Boys del 1983. Si dice che questo pezzo in realtà sia dedicato a Patti Smith, che comunque di androginia un po' ne sapeva in effetti. A me piaceva di più pensare che i Water Boys avessero voluto sfidare la cattolicissima Irlanda anni 80 con questo pezzo intitolato Una ragazza di nome Johnny. Ma probabilmente così non è, pazienza. Io farò comunque finta che sia così, perché a me questo pezzo piace un sacco, mi piace dipingermi le cose come le voglio io. Ecco, il mito dell'androgino o di Aristofane, narrato da Platone nel Simposio, racconta che anticamente non esistevano soltanto due sessi, il maschile e il femminile, ma ne esisteva un terzo, ovvero l'androgino, che aveva appunto caratteristiche di entrambi. Gli esseri umani avevano due teste, quattro braccia, quattro mani, quattro gambe e due organi sessuali ed erano tondi gli esseri umani, eravamo così. Questi esseri umani erano bellissimi e potentissimi al punto di voler competere con gli dèi e volerli detronizzare. Allora Zeus, che comunque se la pigliava sempre, era proprio così un po' fumino, li punì scagliandogli addosso i suoi fulmini e dividendoli per sempre a metà. Adesso li taglierò in due, uno per uno. E così si indeboliranno e nel contempo, raddoppiando il loro numero, diventeranno più utili a noi. E vabbè, già in questa frase direi che c'è un po' tutto. Da quel momento gli esseri umani sono condannati ad essere forzatamente divisi e vivono alla continua ricerca dell'altra metà perduta, morendo di nostalgia dell'antica unione. Quando poi trovano la metà, non riescono a starne separati, struggendosi e tormentandosi di malinconia. La lettura di questo mito platonico, ripreso poi anche dai neoplatonici, dal Rinascimento e anche dall'alchimia, tra l'altro, moltissimo, parla di una ricerca continua e disperata che però non necessariamente deve essere minimizzata nella cosiddetta ricerca dell'amore. Si tratta forse invece, o quantomeno anche, di una costante ricerca e rimpianto della nostra parte maschile o femminile che ci rendeva completi. Peccato che poi la modernità abbia tagliato un po' con l'accetta, peggio di Zeus, e banalizzato tutto con il concetto devastante di anima gemella e tutte le enormi altre cazzate che ci hanno inculcato per secoli. La relazione tra uomo e donna, donna e donna e donna uomo è quindi, almeno secondo questo mito, una ricerca verso l'altro se stesso perduto e fra l'altro non ha alcuna finalità riproduttiva, come invece ci raccontano altre narrazioni, beh, direi ben più autoritarie. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane. It's the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. The time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. But you're in the wrong skin, and the skin that you're in says, let it begin. And Earth is the loneliest planet of all. I was taught how to play piano by Escarita and a fellow by the name of James. So the influence of Escarita on Little Richard, or vice versa, is really there. It's definite. Yeah, the piano. Tell me about him. It's strange. Because a lot of people compare you. It's strange, Roger. He was inspired by me to be in show business, but I was inspired by him because when I first met him, I met him at the bus station. One night I couldn't sleep in my hometown. I would sit there all night and watch people get off the bus. You know, you understand. And everybody's gonna, and he got off. I said, "Oh boy." We have a picture here. Let's hold that up to the mic so our listeners can see it. And you look at this picture and you say, what's happening now? The high top pompadour. He really got his hair. The book made a mistake there. He really got his hairstyle from me. And Doc, you know, that was a mistake. He got his hairstyle from me. That's right. But he taught me how to play piano. He was playing One Mint Julep. Right. By the Clovers. Right. And it was boom, boom, boom, boom. And I just love it. I said, "Oh boy, if I could just do that," not knowing that one day I'll be doing it, you know. So I picked it up and carried it out. Now the New Orleans influence on your music is obvious. Oh, it's heavy, very, very heavy. Very heavy. Were you listening to that music when you were a kid? Gumbo got me. Il pezzo che avete ascoltato prima era di Morris, e l'avrete riconosciuto, Earth is the Loneliest Planet, dall'album World Peace is None of Our Business del 2014, pezzo dedicato a una creatura transgender che si aggira sul pianeta più solitario di tutti. E invece adesso la voce che sentivate forte e chiara era quella di Little Richard, che parlava di Escherita. Parlava della sua influenza, di come si erano influenzati chi per un verso e chi per un altro. Escherita al secolo Stephen Kinsey Reader, detto SQ, è noto anche come SQ Reader, The Magnificent Malachi, Mark Malachi e Fabulous, insomma ce n'aveva un bel po' di soprannomi, fu colui che insegnò a Little Richard a essere Little Richard. I due si conobbero, pare, nel 1953 nei cessi di una stazione di servizio, cessi che sembra non stessero certo usando per pisciare. I due erano in una situazione opposta. Little Richard aveva un contratto discografico, ma non lo stile e le idee che poi l'hanno portato alla fama. Escherita, al contrario, gli mancava l'esatto opposto, cioè suonava il piano, suonava il blues con ritmi e febbri rock and roll, aveva uno stile meravigliosamente queer, con una conciatura pompadour, la stessa che poi copiò pari pari Little Richard, vestiti sgargianti e coloratissimi, occhialoni da sole eccentrici, ed insomma era il rock and roll queer che finora nessuno aveva osato ammettere. Però non aveva un contratto, non era assolutamente famoso, niente di tutto ciò. E insomma poi finì che Little Richard copiò tutto quanto e andò come sappiamo. In seguito Escherita fu scoperto da Gene Vincent, io l'ho sempre saputo che era un bravo ragazzo, l'ho sempre sostenuto, e Gene Vincent che provò in tutti i modi a fargli avere un contratto, peraltro poi ci riuscì, ma d'altra parte c'era già un Little Richard a quel punto e Escherita finì ben presto dimenticato dopo qualche disco peraltro mai veramente fortunato. Escherita muore quasi 51enne nel 1986, ucciso dall'AIDS, e come peraltro accadeva, ahimè, tantissimo al tempo, e non solo al tempo. Escherita, sentiamocela a questo punto, Nobody Wants You When You're Down and Out. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, Lord, I didn't care. Carrying my friends out for a mighty good time, drinking bootleg liquor, all of that champagne and wine. Oh, then I began to fall so low. No money in my pocket, didn't have no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on until the eagles grin. Nobody wants you. Oh, they don't want you when you're down and out. In my pocket, I haven't one penny. And all of my friends, you know that I don't have any love. Oh, let you get up on your feet again. Here they all come, say they're your long lost friend. Lord, it's very strange, without a doubt. Cause nobody want you when you're not. Escherita, direi che è un ottimo tramite, un ottimo ponte per parlarvi del corteo cittadino che c'è a Firenze, oltre a quello di sabato 10 che vi ricordo, ma ce n'è un altro che è domani, oh, il calendario oggi mi è un po' oscuro, devo dire. E domani 8 marzo, in occasione della giornata sulla donna, chiaramente c'è un corteo indetto da non una di meno, ci sono tantissime iniziative e cortei e presidi in tutta Italia e anche a Firenze, e anche perché soprattutto c'è lo sciopero globale delle donne, il secondo anno in cui si prova e si riesce peraltro a ottenere il diritto allo sciopero, e quindi l'8 marzo del 2018 sarà il secondo sciopero globale delle donne. Vi leggo velocemente il comunicato di convocazione per questa giornata. Da Me Too a We Together, il prossimo 8 marzo, insieme ad altre migliaia di città nel mondo, anche a Firenze prenderà vita lo sciopero globale delle donne. incrociamo le braccia per sottrarci al lavoro produttivo, a quello precario e intermittente, alle molestie, alle violenze che proprio nei luoghi di lavoro viviamo quotidianamente, e ci sottraiamo anche a tutte le mansioni implicite, quindi invisibili e non pagate, che in quanto donne ci sono richieste ogni giorno, dentro e fuori la famiglia. Uno sciopero del lavoro produttivo e riproduttivo per affermare che la violenza contro le donne è sistemica, perché colpisce le nostre vite, dalle relazioni alla salute, al lavoro, alla cultura, ai diritti negati. Uno sciopero che è anche un momento per affermare la nostra forza come risposta collettiva. Un grido potente che alla violenza oppone la solidarietà tra donne e l'auto-organizzazione femminista. Dal pomeriggio alla sera un corteo cittadino si riverserà come una marea nelle strade della città, andando a denunciare i luoghi della violenza e a tracciare nuovi percorsi di liberazione. Nella città dello stupro alla Fortezza d'Abbasso, del linciaggio mediatico contro le due studentesse americane che hanno osato accusare due carabinieri di stupro, della stampa che costantemente riproduce stereotipi e violenza, se sessista e transfobica, perché le donne se la sono cercata, avevano bevuto troppo, erano troppo libertine, non avevano la biancheria, non avevano detto abbastanza chiaramente no. Nella città vetrina del decoro, in questa città affermiamo con forza i nostri corpi di donne, i nostri corpi indecorosi e liberi. Contro le retoriche della sicurezza destinata a proteggerci, contro i nuovi e vecchi fascismi che in nostro nome pensavano di propagandare odio razziale e suprematismo bianco, contro sindaci e istituzioni conniventi, contro i tribunali, i e le giudici, le corti che ancora non credono alle nostre parole, perché le nostre parole non sono abbastanza per denunciare una violenza. Noi scioperiamo. Non esiste sicurezza se non quella prodotta da noi, dai nostri corpi di donne, che insieme attraverseranno indecorosamente Firenze per renderla, durante e oltre l'8 marzo, una città all'altezza dei nostri desideri. Antisessiste, antifasciste e antirazziste sempre. Corteo alle 15.30 c'è il ritrovo in Piazza Santissima Annunziata con musica, spettacoli e microfono aperto, e invece alle 18 parte il corteo indecoroso per le strade della città. Vi do anche come altro riferimento per approfondimenti e leggere le varie altre iniziative che ci sono sparse per l'Italia il sito di nonunadimeno.wordpress.com, dove potete trovare tutte le informazioni in più che volete. Ora, dopo tutto questo sforzo vocale per leggere tutte queste parole, vi parlo del prossimo pezzo, che è dei Kinks e si intitola Lola. L'album è Lola vs Power Man and the Money Ground Part 1 ed è del 1970, prestissimo quindi per parlare di certe cosacce. Questo pezzo infatti parla di un ragazzo che una sera in un locale conosce una ragazza che se lo porta a casa. Lei è meravigliosa, bellissima, spacca tutto, e è solo a un certo punto lui si accorge che in realtà lei è un uomo. Era il 1970, il pubblico di Kinks non era esattamente il tipo di pubblico aperto a queste cose, eppure il pezzo ebbe un successo enorme e in qualche modo aprì la strada a Lou Reed, David Bowie e il glam successivo. Like a woman, talk like a man. I'm a lover, la la la. Radio Wombat. Mi raccomando, per chi ancora non sapesse la novità del momento, adesso Radio Wombat la potete provare ad ascoltare anche sulla 1359 in onde medie, quindi procuratevi tutte le radioline che potete e provate a vedere se siete raggiunti dal segnale di Radio Wombat anche a casa vostra. 1359 onde medie AM, quindi ve lo ricordo, e vi ricordo già che ci sono anche i contatti, i social Wombat cosiddetti, ovvero il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta postawombat@insiberia.net. Proseguiamo perché la scaletta di quest'oggi è bella lunghetta e ci sono tante cose da dire. E beh, evidentemente parlando di androginia e simili cose, dovevamo arrivare a Velvet Underground. E in particolare la canzone che probabilmente, beh, ce ne sarebbero altre, ma questa è quella che mi è sembrata più appropriata e che comunque mi piace un sacco e quindi ve l'ho dovuta far ascoltare, è Candy Says. L'album è The Velvet Underground del 1969 ed è una delicata ballata dedicata alla transessuale Candy Darling, star della Factory di Andy Warhol, per il quale recitò nel film Flash del 68 e Woman in Revolt del 71. Morta Candy Darling di un linfoma causato dalle iniezioni di ormoni femminili a cui si sottoponeva. Si dice che anche Gloria Swanson sia stata al funerale per omaggiare la bara di Candy. E non lo so, un'immagine molto malinconica che mi sarebbe piaciuto vedere almeno in video, chissà. Sul disco il brano è cantato da Doug Yule perché Reed si era rovinato la voce esibendosi troppo dal vivo, almeno così si diceva. Lou Reed ha definito poi il brano probabilmente una delle migliori canzoni che abbia mai scritto. E in effetti tutti i torti secondo me non ce l'aveva. I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says, will be. from me. Velvet Underground, passiamo a Lou Reed solista questa volta, con un pezzo, beh, direi super famoso, probabilmente uno dei più famosi. Nel 1972, dopo l'abbandono dei Velvet Underground e un album da solista in realtà stroncato dalla critica, Lou Reed era entrato in un periodo di crisi personale e professionale. David Bowie era affascinatissimo da Lou Reed e si impuntò con la RCA perché continuasse a investire su di lui. La RCA accettò a patto che i due lavorassero insieme e Bowie affiancasse Lou Reed. Allora, Lou Reed vola a Londra e il risultato che ne viene fuori è Walk on the Wild Side, composto da Lou Reed ma con uno splendido arrangiamento jazzato di Mick Ronson e lo stesso Bowie, costruito intorno al giro di basso di Herbie Flowers e al sax di Ronnie Ross. Si tratta di una carrellata quasi cinematografica, beh, non a caso, del bizzarro entourage della Factory di Andy Warhol, che citavamo anche prima, con il quale Lou Reed era entrato in contatto ai tempi dei Velvet Underground. Dedica Lou Reed ogni strofa ad un personaggio senza nessun cenno moralistico, ma anzi invitando in qualche modo alla condivisione di questo lato poco addomesticabile. E la carrellata è composta così: Hollywoodland, no, non l'ho letto malissimo, Hollywood Lone, probabilmente meglio, attore transgender di origine portoricana che lavorò nei film prodotti da Warhol, sia Trash che Woman in Revolt, e quelli che abbiamo già citato anche prima, scomparso nel 2015. E nel 91 aveva pubblicato un'autobiografia intitolata Coi tacchi alti nei bassi fondi, le confessioni dell'ultima superstar di Andy Warhol, scritta insieme a Jeff Copeland. Poi c'era Candy Darling, di cui abbiamo parlato già prima, Joe D'Alessandro, ovvero Little Joe, il modello prostituto prima di recitare in molti dei film prodotti da Warhol, un po' il feticcio maschile. Joe Campbell, citato nella canzone come Sugar Plum Fairy, dal personaggio interpretato sempre nel film di Warhol, questa volta My Hustler del 65, scomparso nel 2005 ed era stato per 6 anni il compagno di Harvey Milk, il politico militante del movimento di liberazione omosessuale. Jackie Curtis, attore, poeta e commediografo transgender, scomparso nell'85 per un'overdose di eroina. Lo stile delle sue performance come drag queen era stata una grossa fonte di ispirazione per David Bowie e per il resto del glam rock inglese. E quindi Walk on the Wild Side riesce ad essere inciso e 45 giri viene pubblicato il 24 novembre del 72 su insistenza di Bowie, ancora una volta, che la descrive come una classica, meravigliosa canzone assolutamente brillante. Lou Reed in realtà era contrario all'idea, convinto che i riferimenti a droga, travestitismo e quant'altro avrebbero ottenuto il bando dalla canzone da parte delle radio. Ma prima che i funzionari della BBC si accorgessero delle allusioni al sesso orale, alla droga, al mondo degli omosessuali e degli emarginati vari,

E per entrare meglio appunto proprio nel concetto di transgender raccontato dal glam rock degli anni 70, mi servo ancora una volta del bellissimo libro di Philip Oslander, Performing Glam Rock, Gender and Theatricality, mamma mia che parola, in Popular Music. Il glam contesta l'ideologia dell'autenticità, ovvero quella insidiosa e conservatrice idea imposta dalla cultura hippie in cui esiste un naturale, un vero, un autentico a cui tutti dobbiamo adeguarci. Il glam mostra invece le identità sessuali come un costrutto anziché un fatto naturale e immutabile. La mascolinità hippie e quella glam sono entrambe effettivamente androgine e femminilizzate. Basta pensare allo stereotipo dell'hippie con i capelli lunghi, la faccia un po' femminea. Però sono femminilizzate in un modo molto diverso. L'immagine femminile data all'uomo hippie è gentile e passiva perché doveva contrapporsi a quella macista del soldato in Vietnam, tanto per capirsi. Questa immagine però è sempre rigorosamente eterosessuale. Si tratta di un uomo, come dire, ingentilito, mentre quella glam allude alla possibilità dell'omosessualità e della bisessualità. Il glam si stacca dalle due identità eteronormate e trova un nuovo modello fluido di identità sessuale, risultato di continui cambiamenti e reinvenzione di se stessi. E come dire, l'identità sessuale quindi non è più incisa su pietra dalla cosiddetta naturalità, ma è una questione aperta e passibile di mutamenti. Nella carrellata di esempi glam eccellenti che vi faccio e che, come vi ho raccontato in altre occasioni, ahimè, raramente sono arrivati in Italia, o se sono arrivati in maniera molto marginale e molto poco cosciente, consapevole. Nella carrellata iniziamo dai T-Rex. Beh, direi che anche per una questione temporale se la giocavano Bowie e T-Rex. Io in questo caso inizio dai T-Rex, e Mark Bolan fu uno dei primi insieme a Bowie a sciogliere la propria identità sessuale in qualcosa di mobile. Probabilmente era meno consapevole di Bowie di cosa stava facendo, ma l'impatto che ebbe sulla società inglese di quegli anni fu immenso. Oltre all'aspetto fisico, al suo modo di suonare, stare in scena, di vestirsi, Bolan alterna varie voci in un continuo dialogo l'una con l'altra. A volte, lo noterete, sono voci roche e profondamente maschili, e altre volte invece sono vibrati, acuti, estremamente femminili, femminei proprio. E tutto l'insieme risulta una sorta di suono orgogliosamente oscillante, eppure in qualche modo anche armonizzato. A questo punto, tra i vari pezzi che potevo scegliere dei T-Rex, ho pensato di darvi in pasto Life is Strange, tratto da Thanks del 1973. Strange, life is strange. Life is strange. People come and people go. Some move fast and some move slow. Na na na na na. Oh God, life is good. Some are fat and some are thin. Some don't even ask you how you been. No, no, no, no, no. Strange, life is strange. Life is strange. Oh, life is strange. Oh, God, life is good. Some are fat and some are thin. Some won't even ask you how you been. Na, na, na, na, na. Quindi arriviamo a David Bowie, che direi come androginia, beh, insomma, non è che ne sapeva poco, e anzi, probabilmente è uno dei primi esempi, se non il primo esempio che mi viene in mente. David Bowie con un pezzo non tra i più famosi, Sweet Head, che era stato scritto, inciso da Bowie nel 71 in realtà, quindi molto presto, ma fu considerato troppo provocatorio per essere pubblicato nel, peraltro già scandalosissimo, album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ci vollero 20 anni, ben 20 anni, per vederlo pubblicato, ma in realtà non fu facile neanche allora, nel modernissimo 1990. E perché? Perché questo brano parla evidentemente di sesso orale, ma lo fa forse per la prima volta nella storia? Chissà, secondo me sì, o perlomeno della storia più famosa. Con orgoglio e baldanza. Cioè, chi parla non è il timido faggot intimidito dalla discriminazione, ma in realtà invece è un'affascinante e fiera rockstar. Bowie gioca sapientemente, non solo in questo pezzo, un po' ovunque, con l'alternanza delle voci basse e acute e con lo spaesamento che provoca il continuo spostamento da un'identità di genere all'altra. Lui su questo era veramente un maestro, come dire, perché è un qualcosa che sì, era presente in tutto il glam rock, ma Bowie lo porta veramente all'estremo con una raffinatezza che gli altri probabilmente non sapevano gestire altrettanto bene. E alcuni critici dell'epoca lo accusarono di aver demascolinizzato il rock, cosa di cui credo fra l'altro sarà stato molto fiero, ma intanto i giovani e le giovani inglesi impazzivano per quella misteriosa e affascinante identità queer. E effettivamente Bowie presenta la propria identità sessuale attraverso una serie di elementi performativi invece che espressivi. Con Bowie, per capirsi, non è che viene da chiedersi se è un uomo o una donna, ma se di volta in volta fa l'uomo o se fa la donna. E sembrerà stupido, ma questo semplice eppure complesso concetto è stato enormemente sovversivo in molteplici modi. Sweet head! E non posso non salutare l'inconsolabile Sara e anche Max che ci seguono, ci ascoltano da Berlino, perché sì, chi meglio di loro sanno cosa si intende per glam. E proseguiamo con gli Sparks. L'album da cui è tratto questo brano è Kimono My House del 74, e di questo album hanno detto che è uno dei loro preferiti Morrissey, Bjork, Steve Jones dei Sex Pistols, almeno tra quelli più famosi, ma secondo me è uno dei preferiti di tante persone. Il pezzo, che è Equator, ha un testo ironico e spiazzante come quasi tutti quelli degli Sparks. Una roba del tipo: sarà fissato all'equatore, io sono arrivato, ti aspettavo qui all'equatore, ma tu non ci sei. Non mi avevi detto che ci si vedeva qui? You said you'd be right there. Equator. Mamma mia, che meraviglia sto pezzo. E The Sweet, il prossimo gruppo con Blockbuster, che beh, è del 1973, siamo sempre in quegli anni, e si apre con una sirena antiaerea, giusto per chiarire subito le cose. Ebbe un successo enorme, spiccò al primo posto in classifica in Gran Bretagna e ci rimase per 5 settimane, tanto per darvi la dimensione di quanto poi questa cosa del glam in Gran Bretagna fu immensa. E, beh, ricordiamoci che erano l'inizio degli anni 70, nella veramente super quasi di nuovo vittoriana Gran Bretagna, insomma stiamo parlando di un paese alquanto austero, eppure tutto ciò fu esplosivo. Tra l'altro, grande scandalo perché gli Sweet apparvero in televisione a Top of the Pops il 25 dicembre, a Natale del 1973, e il bassista Steve Priest indossava una uniforme nazista, chiaramente prima del punk, e vi ricordo che gli Sweet erano vestiti tutti dal primo all'ultimo fondamentalmente da donne, e quindi comunque in molto queer, quindi insomma tutto ciò prendeva una piega abbastanza interessante. Gli Sweet sono probabilmente uno dei gruppi più androgeni che mi vengono in mente e sono sempre stati in bilico tra l'hard rock aggressivo, lo sentirete, e l'altrettanto provocatorio glam rock queer. Diciamo che sempre secondo Philip Hoslander, gli Sweet hanno incarnato una sorta di collisione tra gli elementi femminili e quelli maschili, che insieme davano vita a una sorta di terza possibilità. E gli Sweet, Blockbuster, ma più che sentirvi il pezzo, andateveli anche a vedere. We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? abbiamo finito con il glam, anche se ci resta un ultimo brano che fa un po' da collante con quello che poi è venuto dopo, che è un brano tratto dal Rocky Horror Picture Show, dalla colonna sonora di questo film, che vabbè, The Rocky Horror Show era un musical che debuttò il 16 giugno del 1973, come ovviamente tutti voi saprete, scritto e interpretato da Richard O'Brien, e venne diretto a teatro da Jim Sherman. E poi però invece i due, Richard O'Brien e Jim Sherman, ripropose nel 75 l'adattamento cinematografico, ovvero quello che conosciamo tutti, The Rocky Horror Picture Show. I ruoli eterosessuali, bisessuali e il travestitismo vengono in questo film, così come del resto anche nel musical, esibiti in un'allegoria pronta ad attingere da ogni situazione per irridere o dimostrare quanto siano effimeri i ruoli imposti dalla cosiddetta normalità. È una riflessione più profonda che verte sull'ambiguità sessuale, sulla scoperta di se stessi dal punto di vista sociale e sessuale e sulla concezione di giusto e sbagliato che la società tende a inculcare e della quale spesso siamo prigionieri. Ovviamente non potevo non scegliere Sweet Transvestite, appunto cantato e interpretato dal meraviglioso Tim Curry. How do you do, see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. A sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Sender, Mrs. Sender. We're pleased to inform you that your application's been accepted starting from the time you get this letter. Your life will be one never-ending hope. You're feeling better. You get your choice of anesthetic. We need to chop your cock off. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. It might not be what you expected. There is no money back once you've been ripped off, ripped off, ripped off. Today is a very special day. The boys will murder for it, but what will the neighbors say? It leaves you feeling pretty hollow. It might be nice to look at. Don't forget your stuff. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. You're big enough to stop pretending. You'll start to really show it in a week or so. So don't go saying it's just come to your attention. Today is a very special day. Oh, and how you'd love to have a little thing with a witch to play. But love won't get you very far. Today, be still your beating heart. You'll have to keep on beating it tomorrow and tomorrow and tomorrow. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Boys will be boys, will be boys, will be boys, will be boys, will be boys, will be girls. With no one, girls will be girls, will be guys, will be boys that don't cry over toys that they use to be girls they despise. By the morning, they always said that sex would change you, change you, change you, change you. Your second thoughts, the knife is nearing. You'll never hear the little this little beat of engineering. Of course I love you, and of course it's what's inside that matters. But I think the whole charade is ending. It seems to me to be the only way to keep from getting cut off in a long line of regretting. The doctor said it once you get a taste of it, she'll keep on cutting. But while we happen to be here, why don't you whisper all the sweet forevers in my stiff upper lip and all this sorrow? Come non potevamo non farvi ascoltare Dresden Dolls in questa scaletta dedicata all'androginia. E Sex Changes era il titolo del brano dall'album Yes Virginia del 2006. Ma siamo quasi alla conclusione di questa puntata, ci mancano soltanto due pezzi e il prossimo, quindi il penultimo di questa scaletta è degli Spit Boy, anzi le Spit Boy, e si intitola You and Me and the Art of Being a Woman. L'album è Vivendo Asperamente del 1995. Le Spit Boy hanno parlato a lungo e approfonditamente delle componenti razziste e misogene all'interno della scena punk hardcore dell'area della Baia di San Francisco e sono entrate fra l'altro in conflitto spesso e volentieri anche con il giro Riot Girl dell'epoca, le altre femministe e anche con quell'antifascismo un po' astratto e stereotipato, come dire. Anche loro di androginia ne sanno un bel po' e beh sì, basta ascoltarle e vederle. E beh sì, siamo quasi in fine, quindi ascoltatevi intanto questo penultimo pezzo e poi ci risentiamo per la conclusione. siamo a fine, ci manca l'ultimo brano e che affido a, beh, sì, facciamo un saltino indietro, sì, dai, alla fine, anche se propriamente non si tratta di glam, loro per primi non sarebbero d'accordo in questa definizione, però siamo nel 1973, non ci distacchiamo moltissimo. Sono i Cockney Rebel con Sebastian, lo stesso Steve Harley, il leader, mi fa veramente schifo, il cantante, ecco, banalmente il cantante dei Cockney Rebel definisce Sebastian come una storia d'amore gotica. Non lo so, io non lo so bene se è questo. Le parole in effetti sono oscure ma molto evocative e di una raffinatezza barocca degna della rivoluzione transgender che era in atto in quegli anni. Con questo vi saluto e vi lascio quindi nelle mani di questa bellissima Sebastian di Cockney Rebel. Vi do appuntamento, vi rinnovo l'appuntamento per domani, ci vediamo in piazza per l'8 marzo e a Firenze, e di nuovo sempre a Firenze anche sabato per il corteo antirazzista e in solidarietà con la comunità senegalese dopo le terribili cose che sono successe, e mi sento di dire non soltanto l'omicidio ma anche quell'orribile masnada di parole vomitate dai giornali negli ultimi giorni. Quindi appuntamento domani è il 10 marzo, sabato, in piazza, che spero siano affollatissime queste nostre piazze. Quindi ci riascoltiamo mercoledì prossimo, sempre per una puntata di Slick Chick, e vi ricordo di rimanere, dai, fatelo, rimanete, tanto che ci avete da fare, andare a letto, mi sembra presto, quindi rimanete in ascolto del Wombat in streaming o sulla 1359 in onde medie per chi è raggiunto da queste onde mediocri. Ciao ciao, alla prossima, buonanotte. Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, I can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Place we'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Sebastian. Toss me the dime, lay me your mind, we'll own our own end. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. You're not gonna run, babe. We've only just begun, babe, to compromise. Slight in a Bowery saloon, love's a story to set you alone. Pale angel face, you are shadow, and glitter is out of sight. No courtesan could begin to decipher your beam of light.